Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I giorni passano e noi continuiamo a sentirci sempre di più. Oltre alla chat abbiamo esteso le conversazioni anche al cellulare. Entrambi ci troviamo spesso a domandarci perché tanta complicità. È strano trovarsi così in armonia con una persona mai vista. Mi chiamo Jessica, sono di Villa Cidro, in provincia di Medio Campidano. Sono una studentessa di archeologia. Sabato ho ricevuto sul profilo Facebook del programma un messaggio di un ragazzo che sembrava molto simpatico, perlomeno da quello che scriveva sembrava molto simpatico. Mi diceva: io non conosco il tuo programma e non conosco te, però una coppia di amici mi vuole obbligare a venire a questa festa finale che fate il 26 di giugno a Radio 24. Mi dai un buon motivo per cui dovrei venire? Non ricordo esattamente come si chiama, adesso non ce l'ho sotto gli occhi, però mi ha fatto ridere innanzitutto il fatto che la chiamava una festa, perché è vero che noi ogni tanto diciamo che è una sorta di festa finale di fine anno, però di fatto è una serata, è una sorta di spettacolo, e lo è ancora di più perché ci sarà questa musica sotto le storie che raccontiamo, la musica di Mauro Ottolini e dei Sousaphonics. Ma carissimo amico degli amici, di cui non ricordo il nome, le motivazioni sono tante, me ne viene in mente una sostanzialmente, ed è che quello che accade lì è che ci sono delle persone che si incontrano e che condividono dei pezzi della loro vita. Lo hanno già fatto durante l'anno e io semplicemente rileggo e riracconto le loro storie. Quindi, come dire, succedono delle cose. Cioè, ci sono delle parole che fanno succedere delle cose. Non ci sono idee, non si parla di ideali, non si parla di possibilità per il futuro, non si parla di cose che potrebbero succedere, che forse succederanno. Si parla di cose che sono accadute e di pezzi di vita delle persone. Sono pezzi di vita molto diversi tra di loro. Ci sono persone ottantenni e diciassettenni. Ci sono storie che parlano di viaggi rocamboleschi in mare, storie che parlano di guerra e poi invece storie che parlano di cibo in Turchia. Succede questo e succede molto di più. Non so se ti ho convinto, ma se hai voglia, il 26 di giugno noi siamo qui. E se, mi dimenticavo, se hai voglia di iscriverti gratuitamente, come hanno già fatto diverse persone, e tra l'altro mi diceva prima Elisa del marketing che sono passate nemmeno una settimana di fatto e già, non dico che ci siano pochi posti a disposizione, ma forse conviene che insomma decidiate cosa fare se volete venire il 26 giugno e vi iscriviate. E per farlo molto semplicemente andate sul sito di Radio 24 e trovate un boxino scorrendo in basso sulla pagina verso sinistra. Voi siete qui live, ci cliccate sopra e più o meno a metà scorrete, è un mini sito molto bello, ci sono foto, immagini, c'è un video di Ottolini e Sousaphonics quando hanno suonato qui dal vivo, una sorta di promo della serata. E poi cliccate su iscriviti, inserite i vostri dati, inviate, vi stampate il foglio che vi appare sullo schermo, venite qui e si gioca e si segue la serata, tutto gratuitamente ovviamente. Vi ricordo, è giovedì 26 di giugno del 2014 qui in via Monterosa 91, il live di Voi Siete Qui, Matteo Caccia sul palco, Mauro Ottolini e tutti i Sousaphonics, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni sempre lì a fare la musica, a fare la coreografia di Margherita Ina sul palco. C'è questa roba che io prima o poi vorrò fare un balletto, ragazzi. Vi ricordate? Volevo già farlo l'anno scorso. Vi ricordate? Ho detto, facciamo. Sì, l'anno scorso volevo fare un balletto su una musica, non mi ricordo neanche più di chi. Adesso mi sfugge. E quando avevamo invitato gli autori delle storie, loro mi avevano detto, almeno in tre mi hanno detto: guarda, scordati che facciamo un balletto. Ma succederà. Per quest'anno solo la musica, il prossimo anno anche la coreografia. Il 26 di giugno alle 21 qui a Radio 24. Per iscriversi andate sul sito. Sono le 16:12. Intanto, buongiorno a tutti. Oggi noi non diamo solo le coordinate per venire al live, ma raccontiamo una storia. La storia di oggi è una storia di Jessica. Ed è una storia, ne parlavo prima con Tiziano, ed è una storia piuttosto attuale. Cioè, noi abbiamo spesso e volentieri storie che raccontano di cose del passato, di racconti di infanzia, beh, insomma, quando raccontiamo storie appartenute e che appartengono a persone anche piuttosto anziane, molto molto in là con gli anni. Questa è proprio una storia che appartiene a quest'epoca qua e che ha a che fare col modo di comunicare delle persone, che è cambiato sostanzialmente da quando sono nati i cellulari, da quando sono nati i computer, da quando c'è l'internet, perché con l'internet si possono fare veramente un sacco di cose, e da quando sono nate le chat. Prima prima Tiziano mi diceva che ormai è dato per scontato, no? Del fatto che sono 10 anni che esiste la messaggistica online, le chat, più semplicemente chiamate chat, le chiamiamo chat ma per comodità, e di fatto quello che succede non è più virtuale, non c'è differenza tra virtuale e reale. Se tu stai parlando con una persona e quella roba lì ti emoziona, ti arrivano delle cose, anche se è su uno schermo, di fatto quella roba lì sta accadendo. Tutto per dirvi che la storia di Jessica è una storia molto attuale e fa così. Era l'estate del 2009, quando un giorno, mentre ero collegata su Facebook, decisi di commentare un post pubblicato da una mia parente. Improvvisamente compare una notifica col nome di un ragazzo che si rivolge a me con toni scherzosi. Rido e rispondo. Passano pochi secondi dalla sua richiesta di amicizia. Titubante, mi chiedo se sia il caso di accettare. Non lo conosco, non so chi sia. E una battuta buttata su un social non è certo una garanzia di sicurezza. Ma al contrario della mia etica, fino a quel momento da me sempre osservata, che mi impediva di accettare estranei sul mio profilo, ecco, al contrario accetto. Mi cerca subito in chat e iniziamo una lunga conversazione. È simpatico, mi fa ridere, e dalle foto sembra anche molto carino, e come la mia parente vive in Lombardia. I giorni passano, noi continuiamo a sentirci, sempre. Abbiamo esteso le nostre conversazioni anche al cellulare. Iniziamo a capire di più l'uno dell'altro e capiamo anche di essere molto simili. Questa somiglianza da un lato agevola, dall'altro invece è fatale. Siamo due testardi, due persone che non hanno peli sulla lingua, molto impulsivi, molto orgogliosi e diffidenti verso gli altri. Ciò ci porta a grossi litigi, ma fortunatamente, chissà per quale oscuro motivo, riusciamo a mettere da parte il nostro orgoglio. Intanto il tempo passa. Entrambi ci troviamo spesso a domandarci il perché di tanta complicità. Era strano, e ammetto che lo è anche ora, trovarsi in armonia con una persona mai vista. Lui è l'unica persona con cui ho stretto amicizia tramite chat. Non è successo altre volte di appunto parlare con persone che non conoscevo. Arriva il febbraio 2010. I miei genitori, per la maturità, mi avevano regalato un biglietto per il concerto di Vasco Rossi ad Assago. Parto. Tra le mie tappe è compresa anche la casa dei miei parenti, i quali abitano nello stesso paese di lui. Il 14 febbraio 2010 finalmente incontro il ragazzo con cui parlo da mesi. L'uscita non è stata delle migliori. Avevo la febbre ed entrambi eravamo un po' imbarazzati. Poche parole, come se le avessimo esaurite in tutti quei mesi di conversazioni lunghissime. Come se avessimo messo da parte l'espressione verbale per lasciar posto ai sensi, come la vista. Finalmente però quella voce e quei caratteri digitati avevano un volto. Rientro in Sardegna, riprendo con l'università e il rapporto tra me e lui continua. A giugno però lui smette di farsi sentire. Io non ne capisco il motivo, sono arrabbiata e allo stesso tempo triste. Passa un anno e lui torna. Torna e io lo lascio tornare. E anche questo andava contro ciò in cui credevo. Infatti, se fosse stata qualsiasi altra persona, non ci avrei pensato due volte a chiudere definitivamente. Ma non lo faccio e non chiedo nemmeno spiegazioni. Quell'estate torno in Lombardia, ci rivediamo e riesce a farmi superare addirittura la paura delle due ruote. Ho superato la paura delle due ruote perché lui mi ha fatto sentire al sicuro e addirittura alla fine mi piaceva anche, non volevo più scendere. Sono passati quasi 5 anni dall'inizio di questa storia. Ancora oggi le nostre conversazioni continuano. Ogni tanto mi fa arrabbiare, ma c'è sempre stato e c'è tuttora per me. Sia nei momenti belli, sia in quelli brutti. Ci vediamo quasi ogni estate. E nonostante provi a nascondersi dietro la sua durezza, proprio come me, so che è lui. È una persona stupenda. Io sono felice di aver dato retta all'istinto in quel giorno d'estate e avere di conseguenza dato inizio a tutto questo. Quando Cristoforo Colombo partì per scoprire l'America, la maggioranza dei suoi contemporanei aveva paura di navigare verso l'altra parte del mondo, perché erano convinti di precipitare in uno spazio vuoto. Allo stesso modo, negli anni 90, l'eccitazione per la scoperta di internet spesso sfumava nella preoccupazione per le conseguenze che avrebbe generato nelle nostre vite. In quegli anni, gli spettacoli teatrali allungavano il titolo con .it o .com, come se bastasse quella coda per rendere Edipo o Amleto un po' più attuali. Al cinema fioccavano film moralistici sulla realtà virtuale. Nel 92 uscì il Tagliaerbe, non so se ve lo ricordate. Un film dove un tagliaerbe, a causa dei continui viaggi nella realtà virtuale, abbandonava la sua forma umana e si trasformava in un puro programma di dati per vendicarsi dei suoi persecutori e quindi dominare il mondo. Stavamo tutti sotto la minaccia del Millennium Bug, il baco del millennio, un presunto difetto di tutti i sistemi informatici che allo scadere del 31 dicembre 1999 avrebbe mandato in tilt tutti i computer del pianeta. In quegli anni è nata la prima star virtuale, Lara Croft, l'eroina di Tomb Raider. Ha conquistato le prime pagine delle riviste proprio come una diva in carne ed ossa. Tanto che quando si è fatto il film con Angelina Jolie, la campagna pubblicitaria è stata fondata sull'ambiguità se fosse Lara Croft a prendere le sembianze di Angelina Jolie o fosse Angelina Jolie a voler somigliare il più possibile a Lara Croft. Nel 95 è nato il Tamagotchi, il pulcino virtuale da allevare e custodire come un vero animaletto. Il primo tentativo di creare un legame affettivo tra un uomo e un oggetto tecnologico. Io non mi ponevo il problema perché un computer nemmeno ce l'avevo ancora, ma visto che connettersi anche con la lentissima 54K era un'esperienza da pionieri, io andavo nella biblioteca della mia università, dove c'erano i computer a disposizione degli studenti, per provare l'esperienza della chat. La chat line era vista come qualcosa di pericolosissimo. Un altro film di quegli anni si intitolava Viola, con la chiocciolina al posto della A finale del nome, e raccontava proprio le conseguenze pericolosissime di una chat erotica. La prima volta rimasi colpito dai nickname, gli pseudonimi con cui ci si presentava. Ammiravo moltissimo chi aveva il coraggio di presentarsi con nomi tipo Tony Lampadina o Bovisa Boom Boom. Io al massimo ero riuscito a inventare una roba tipo Teo con l'H tra la T e la O. Ho passato 2 settimane a scrivere tutti i giorni a 2 ragazze. Pietra Lunare e Arancia, una di Brescia e l'altra abruzzese. Pietra Lunare diceva di essere un'impiegata di banca, Arancia una ballerina, e non ho mai avuto modo di dubitare di quello che mi dicevano. Io forse mi sono dipinto un po' più grosso di quello che ero, ma come hanno sempre fatto tutti i ragazzi di 20 anni quando approcciano le ragazze. Ecco, per 2 settimane ho chattato con loro, dalla mattina alla sera. Poi l'addetto ai computer si è accorto che chattavo tutto il giorno e ha pensato che doveva salvarmi, quindi ha cambiato le password. Io non avevo ancora scambiato il mio numero di telefono, insomma era l'inizio, erano gli albori, e quindi dopo 2 settimane ad altissima intensità ci siamo totalmente persi di vista. Non so più niente di loro, non so nemmeno il loro vero nome, ma mi piace immaginarle come delle amiche per un brevissimo periodo, ma amiche in tutto e per tutto. Oggi anche un bambino non saprebbe spiegare che è la forza di gravità a tenerci ancorati al suolo, a prescindere da dove viaggiamo e dove viviamo, che la Terra è tonda e che Colombo aveva ragione, dall'altra parte c'è l'America. Per noi è ancora presto forse dirlo, ma rinunciare al viaggio per paura o diffidenza è sempre la soluzione peggiore. She's a primitive girl, she's setting me free, and her back's in the basics, her philosophies. She's nobody's fool, I know she never was for me. She's a primitive girl, she's setting me free. Nonostante la foto sia un po' mossa, è molto carina Jessica nella foto che ci ha mandato e quindi immaginiamo anche nella vita. È in mezzo pericolosamente, direi, a un mezzo, una strada o un piazzale. Si vedono macchine che sfrecciano dietro di lei. Ha i capelli scuri, ha una bella giacca chiara e anche un bel sorriso. Pronto Jessica? Pronto, ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Tu? Io benone. Tu non sei in un sottoscala, vero Jessica? Perché ti sento un po' male. No, sono in camera mia. Sei in camera tua, perfetto. Sì. Mi ricordi esattamente di che parte della Sardegna sei, Jessica? È dalla provincia del Medio Campidano, quindi zona di Cagliari, un po' più su. rispetto okay. a Cagliari. Okay. Cioè, quanto ci mette arrivare a Cagliari? Sì. Un'oretta. Okay. Sono 52 chilometri. E ci vai in università a Cagliari? Sì, sì, sì. Ho vissuto per 3 anni durante le lezioni, per frequentare le lezioni, poi adesso sono tornata nel mio paese e viaggio solo per sostenere gli esami. E quanto ti manca più o meno, Jessica? 3 esami, più, vabbè, dovrei finire la tesi e se Dio vuole, ad ottobre, novembre dovrei riuscire a laurearmi. In che cosa? In archeologia. Ah, giusto, lo dicevi in apertura, in archeologia. Quindi sì. Ti capita di fare già dei, come si chiamano, campi? No, come si chiamano? Quando... Scavi. Gli scavi, perdonami, certi campi, sì. Come no, tutti, sì. Tutti con gli scout a fare i campi di scavo. Perdonami, Jessica, l'ignoranza. A fare gli scavi, dove li fai? In Sardegna no, ce ne sono diversi di luoghi, no, dove scavare. Sì, sì. Abbiamo un immenso patrimonio artistico come l'Italia, però vabbè, io ancora non ho partecipato a degli scavi perché sono organizzati durante le sessioni d'esame, quindi ah, okay. O do gli esami, sì, oppure vado a scavare, non voglio posticipare ulteriormente la laurea, quindi per adesso niente. Quindi da grande fai l'archeologa? Sì, si spera di sì, speriamo che un po' le cose cambino qui nel nostro paese. Altrimenti, vabbè, la farò fuori. Ah, ok, cioè l'intenzione è comunque di fare quel mestiere lì, insomma, se poi dici se non riesco a farlo qui, vado via. Sì, vabbè, diciamo che la mia laurea mi apre diverse possibilità, potrei fare quello con altre cose, come lavorare in un museo. Certo, certo, chiaramente, vabbè, che immagino, però sì, l'idea è quello di stare lì nella terra a scavare. Cioè, adesso l'ho detta male, però l'ideale è sempre Indiana Jones, ovviamente, immagino. Sì, prima stavi parlando anche di Lara Croft, quindi siamo in tema. Esatto. Senti, Jessica, invece, veniamo noi. Vi sentite ancora tu e questo ragazzo? Non l'abbiamo nominato così, per puro sfizio, per evitare... Perché, insomma, tu l'avevi... Avevi scritto il suo nome, però non avevi detto, magari preferisce di no. Comunque sia, vi sentite ancora? Sì, sì, ci sentiamo ancora. Non tutti i giorni, però spesso. Ma più o meno tipo un paio di volte a settimana? Sì, sì, siamo sempre in contatto, sì. E voi non siete fidanzati, Jessica? Proprio avete un rapporto no. A distanza? No, no, infatti anche al telefono prima Margherita me l'ha chiesto, ma non siamo fidanzati. Perché Margherita non sfugge niente, lei proprio, se c'è una roba che deve venire fuori, lei la tira fuori. Quindi insomma, semplicemente avete un rapporto di amici e non è che magari a uno piacerebbe un po' di più? Non lo so. Questo. La prossima domanda. Ok, va bene, la prossima domanda è, tu non sei fidanzata? No. Ok, lui è fidanzato? No. Prossima domanda? Quando vi vedete? Quando vi vedete, Jessica, la prossima volta? Non lo so, speriamo quest'estate, non so se io riesco a salire su o se lui riesce a scendere giù. Cioè, in sì. Qualche modo, insomma, a metà strada è un po' più difficile. Jessica, io purtroppo devo salutarti perché insomma stavano venendo fuori le cose interessanti, ma il tempo è questo qui. Io ti invito formalmente al live del 26 giugno, che però attenzione Jessica, potrebbe essere un motivo, Tu pensaci. Tu pensaci, okay. È un giovedì sera, magari ci unisci il weekend. Ancora non so perché. Va bene. Comunque ti ringrazio per l'invito. Ma di cosa, figurati, frena mano tiratissimo. Jessica, ti ringrazio moltissimo, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, a presto. Ciao. 349-238-6666. Mi dicono che le chat esistono da 25 anni, Minitel e Videotel. Sì, hai capito, ma se provo a chattare col Videotel 25 anni fa, non so in quanti erano in grado di farlo, se non erano degli ingegneri. Vi ricordo che a luglio siamo in onda tutto il mese. Stiamo raccogliendo storie che parlino di avventure, storie che parlano di guerra e di viaggio. Se ce l'avete e volete partecipare, voi siete qui, @radio24.it. Grazie ancora a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, la sempre ineffabile Margherita Hina, grazie a Mauro Pescio, ma grazie soprattutto a Jessica, perché alla seconda domanda passiamo un'altra domanda. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Io sono Rino D'Amato, da Sesto Calendi in provincia di Varese. La storia di domani è la mia e parla dell'Oktoberfest. Questa è la mia storia e io sono qui.